All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. www.bach.it, cliccate la cena dei regini, commentate a cena@bach.it questa trasmissione dedicata al mistero. Loro stanno partecipando a una serata di gioco di ruolo dal vivo, ancora no, ma tra poco si astrarranno, diventeranno degli investigatori alla scoperta, alla risoluzione di un mistero. Ragazzi, per saperne di più state ancora ad ascoltarci in radio o a guardarci su YouTube e torniamo subito dopo una piccola pausa musicale. E ragazzi, della cena dei reggini, passiamo all'angolo delle notizie, le ultime dall'Aus, quello che è successo in questa settimana e quante ne abbiamo combinate questa settimana, ragazzi. Innanzitutto siamo andati a addobbare l'alberello striminzito che era di fronte al Teatro Cilea. Ci abbiamo provato. Un grande video, tra l'altro sotto una con uno spettatore eccezionale, Lamberti Castronuovo, che ha assistito con gioia alla nostra, alla nostro video. E siamo andati là, abbiamo portato le nostre decorazioni per abbellire questo alberello striminzito. Abbiamo portato l'albero. Ma cosa mancava? L'albero. Ma noi non ci perdiamo d'animo e l'albero l'abbiamo portato noi. Il non albero. Il panda ha interpretato l'albero, l'abbiamo addobbato al meglio. Sì. E abbiamo creato un ricco video che su YouTube modestamente sta dando parecchie soddisfazioni. Ma ragazzi, notizia all'ultima ora. Domani verrà messo un nuovo albero a Piazza De Navi e andremo ad addobbare anche quello. Buono. È un applausino, La nostra iniziativa ha funzionato, ci metteranno un albero vero, però ovviamente portiamo sempre il panda perché non si sa mai. Lo portiamo sempre ormai quando c'è bisogno di un albero. Sapete chi chiamare, però devo veramente ringraziare, a parte i ragazzi che hanno partecipato, anche a tutti quelli che tramite internet hanno manifestato la loro solidarietà alla idea. Altra cosa straordinaria, la domenica, il Natale a casa Gulliel, a quello ho partecipato raccontando, recitando due mie poesie in radio, questa festa bellissima legata al mercatino del chilometro zero, un'iniziativa molto bella alla quale partecipiamo spesso come stand, ma stavolta sono riuscito ad andare in giro a conoscere le persone che vedevo solo da lontano, perché ogni volta sono piazzato là come lo stand, e che saluto tutte le varie... le varie realtà di coltivazioni e via dicendo, ho scoperto realtà bellissime e parallele. Altra realtà è il gioco di ruolo, che riprende settimanalmente, il gioco di ruolo dal vivo da tavolo che organizziamo ogni settimana e che sta bene o male procedendo con ricchi colpi di scena. E poi ragazzi, dal mese prossimo riprendiamo i live, ma vogliamo anche te, se tu vuoi giocare. Se hai una location, una casa, un locale, chiamami! Il back@ilback.it, verremo nel tuo locale, faremo una bellissima serata e ci divertiremo assieme. Assolutamente. Grande, e poi è bello. Questa interazione col pubblico, soprattutto quelli che hanno un locale e che ci vogliono ospitare. Sei commosso? Parecchio. Sto piangendo! No, mi ricordo le giocate fatte quando l'Aus aveva... Era nel periodo più fiorente ed erano bellissime. Il periodo più fiorente. Ma Laus ritornerà migliore di prima, ve lo assicuro. Ma ragazzi, adesso, prima di avventurarci nel gioco di ruolo dal vivo di questa sera, facciamo un piccolo spazio musicale. Yeah. that being said, reason for not being mad around the cafe. Tell me, why not just leave again tonight? I need to face alone. Let's find out what is right. Let's have a ragazzi, la cena dei regini speciale, la cena con delitto. Adesso sono stati consegnati loro dei foglietti che rappresentano il background del loro personaggio, ovvero degli obiettivi da fare. Non fatelo vedere! Non fatelo vedere! Durante la serata, è quello che dovranno raggiungere alla fine di questa serata. Ma proseguiamo con uno spazio della posta. In questo angolo inconsueto per noi, e ci è arrivata questa letterina. Questa letterina che Panda leggerà ad alta voce. Io? Sì. Non ve lo posso bene. Cari amici, il mio nome è Veronica Miller. Se state leggendo questa lettera, vuol dire che non ci rivedremo più, almeno non in questa vita. Mi scuso per non essere potuta rimanere con voi in trasmissione. Ma pare che Babbo Natale abbia preso la mia mano prima dell'inizio dello spettacolo. Natale sta arrivando. Ho dedicato molto del mio tempo a molti di voi e pare che adesso sia arrivato il momento di guardare ad ovest, dove il sole tramonta, e ricongiungermi con i miei avi. Mi dispiace lasciare così un gruppo di affezionati amici come quelli della loggia del libro. Avevo un ottimo libro di storia americana da portare al prossimo incontro. Leggendolo ho capito che il percorso della sua libertà è lungo, ma possibile. E che dire degli altri amici? Di quelli che mi aspettavano nell'ombra. Avrei giocato un'importante partita con loro. Non fosse arrivata prima lo scacco matto della mia storia, sepolta sotto il quadrante di un orologio e la tomba colma dei miei lasciti. Lascio la mia San Pedro in omaggio alle persone in difficoltà, perché io non ne ho più bisogno e sto tessendo altre vite, ricucendole con l'ago del perdono. Un addio è sempre un addio, ma sappiamo che questo sarà solo un arrivederci. Christmas is coming. Ragazzi, lascio questa lettera a disposizione di chi la vuole leggere per ispirarsi durante la serata, perché adesso time in, inizia il gioco. I seem confused to you, angry about you too, and you got no idea for how long I've been here. I wish I were insane. You wish me all insane. God's speaking in my brain. Maybe I am insane. wish I were insane. You wish me all insane. God speaking in my brain. Maybe I am insane. Ragazzi, la cena dei regini, time out, adesso rilassatevi un attimo. E la prima domanda essenziale è, alla fine del gioco, chi fa parte del club del libro? Alzi la mano. Grazie. Nessun altro si è aggiunto, cioè solo tre elementi fanno parte del... Volevo convinto lui a venire? A leggere qualcosa. Peccato che poi non sono più uno scrittore io. Niente, il club del libro non tira moltissimo. Ragazzi, le vostre... Chi ha in mano gli elementi della... Aspetta che riapro. Cosa abbiamo quelli sbagliati? Guarda, è meglio date le persone per costruirli, pare. Sì, è brutto. Perché i miei, uno lo custodiva lui e uno lo custodiva lei. Che sono le due... Che sono uno è la mappa di Ginevra e l'altro è il codice. A cui ho stato detto bene, per fare bene attenzione e non dare a nessun altro. Peccato che sto codice ha fatto il giro... Io ero un sindaco. Anzi, l'avevo rubato. Tutti sospettosi, gente che... Allora ragazzi, quanto si apre il file? Caricamento. Sono sgamatissimo. Io sono il poliziotto. No. Aspettate. Chi è il poliziotto dentro di te? Non lo so, poliziotto. Lui. Vai, amico mio, vai. Lui poliziotto. No, iniziamo ragazzi. Vabbè, ragazzi. Allora, innanzitutto, la cosiddetta banda dei sei. La posso dire io? Aspetta, chi è della banda dei sei? Ok. Ma sono cinque. Avete... Sono tre in realtà. Avete trovato la mappa? È in vostro possesso? Sì. Manca una però. Una. Una, ok. Sarebbe la mappa dell'antico manufatto. Io ho trovato... Ma ci serve... Aspetta. Banda dei sei, avete i codici? No. E quindi siamo morti. Niente da fare, la banda dei sei. La per la depressione. Nucleo investigativo nazionale. No. Anche tu. Sì. Potevi dirmelo. Infatti la banda dei sei doveva recuperare, ragazzi, la banda dei sei doveva recuperare la mappa che avrebbe permesso di fare una rapina alla banca e dei codici di accesso al capo, ma evidentemente la mappa c'è lui. Altra fazione, aspettate una cosa per volta, nucleo investigativo nazionale, questa fazione doveva identificare la banda dei sei. Ce l'abbiamo fatta. E ce l'ho scritto. Io ho scritto qua i codici di ingresso perduti. Ce l'ho? No, grazie. Anche io. Passate soltanto a Venni. Pensavo di farti vedere prima. Pensavo se visto il fogliettino. Bisogna proprio avere il. Passate a Venni. Bisognava averlo proprio per. Io gli ho fatto così a lei. Io? No, non vale. Loggia del libro. Questo gruppo, questa fazione doveva recuperare la mappa del manufatto che alla banda dei sei non avevi il loro. Perfetto. E dovete convincere almeno metà dei partecipanti più una a entrare a far parte della loggia, però siete solo rimasti in tre. C'è nessuno ha vinto. Ma per non sapevo nemmeno che c'era lei nella loggia. Ragazzi, io vi ho detto, valutate prima, capite chi sono le fazioni. Ma guarda, personalmente io avevo capito che c'era... Ragazzi. Personalmente avevo capito all'inizio che c'era un solo, cioè ero solo io della polizia. Non avevo mai immaginato loro due, perché erano troppo sospetti. Lui con quel fare particolare. Ma io avevo capito che c'erano altri. Però non pensavo te, pensavo a lui. Quello io ce l'ho a te, Pure tu. Ragazzi. Persino tu. Calma. Perché? Per questa volta è andato, ovviamente era un esperimento, anche perché comunque il luogo era ridotto, quindi una cosa tanto per. Torneremo dal mese prossimo in versione non ridotta e quindi ne faremo altre assolutamente. Questo sarà molto più particolare e molto più bello sicuramente. Molto, anche perché ci saranno le armi e gli omicidi. Ci ammazzo tutti. È un altro. Metti in fila. Ma quindi tu eri picchiotto a prescindere. Ragazzi, Christmas is coming. La nuova. Questa è stata la sessione di Ars Live in versione test. E adesso un piccolo spazio musicale. Oh, La cena dei regini, cena @bacco.it per commentare questa puntata veramente strana e misteriosa. Bella. Il gioco adesso è terminato, loro si stanno rilassando, c'è stato un attimo di confronto tra i vari indizi, personaggi e via dicendo. È stata una sessione particolare per quanto in forma di lotta, però ci ha divertito parecchio. Io parlo personalmente, ma che divertente. No, a parte tutti a parte, è una cosa divertente. Lei è proprio una dito sulla piaga. Ma ragazzi, passiamo velocemente all'angolo delle notizie dalla strada. Iniziamo subito da un vero personaggio incredibile, direi. Lui ha un nome abbastanza inconsueto perché è africano. È un, penso che sia ormai il più famoso interprete in lingua dei segni del mondo, pur non essendo interprete in lingua dei segni. Quest'uomo si è presentato alla commemorazione del suo Mandela come interprete in lingua dei segni e ha iniziato a fare dei segni assolutamente senza senso, e quindi è stato ripreso accanto alle più grandi personalità della Terra. Poi si è scoperto che neanche conosceva la lingua dei segni, che era praticamente da imbucato. E inoltre lui si è giustificato dicendo di soffrire di schizofrenia e che durante la cerimonia ha sentito delle voci e ha visto degli angeli. Ok. Ma com'è possibile? Ma è vero, degli angeli. Questo è il più grande imbucato della storia. Cioè, io penso che ha fatto la CIA, l'NSA, che spiega tutto il mondo e accorgersi di questa persona. L'ultimo scemo della Terra è arrivato là accanto a Ma capito, questo è il fotobomber a livello estremo. Sì, proprio? Sì. E poi cercavo Osama Bin Laden. Assolutamente. Era lì accanto a loro. Ma poi tutti i posti dove ti potevi imbucare, tipo per mangiare, feste, cose, no, pensavo andare in televisione. Però ha beccato comunque l'evento mediatico dell'anno. Tu pensa questo, è riuscito a fregare tutti quanti, solo facendo dei segni casuali. Cioè, nel suo modo è un genio. Certo. Ma è uno schizofrenico. Che vedi? Dettagli. E vabbè, bisogna salutarlo alla sua maniera. Non siamo angeli. Esatto, basta così. Ritorna la grande bufala del wifi pericoloso. La notizia secondo cui queste ragazze di un college statunitense hanno messo un piatto di semini accanto al loro router e un piatto in una stanza, un piatto in un'altra stanza con un router attivo. E il router vicino, il piatto vicino al router era praticamente morto, cioè come dire, la vita all'interno era spezzata. Ma è una bufala. È una bufala storica. E quindi anche tu saprai così. Eh beh, i router sono radioattivi. C'è il mito che il wifi sia mortale e faccia male. Tutto è radioattivo. Certo, anche noi siamo radioattivi. Ma parlavo di radiazioni particolari e pesanti, non quelle. No, infatti, però l'applicatore che c'è dentro il router è, come insegna il buon look, di circa 0,1 millimetro. La massima emissione sono 100 millimetri. Per legge. 0,1 millimetri. modo da non poter superare la copertura di casa sì. Ma ragazzi, sopravvive a tutto, lo insegna questa donna cinese che per 8 mesi è vissuta con una canna di bambù di 12 cm nella faccia e non se n'era accorta. Aspetta, un brusco nell'occhio. Cioè, è arrivata all'ospedale. Dice, una bruschetta nell'occhio. Cose che capitano, proprio. È arrivata in questo ospedale per farsi visitare e si hanno trovato questa stecca di bambù di 12 cm nella faccia. Ma come c'è? Ma non se ne capace. Ah, è sopravvissuta per 8 metri. Sì, tra l'altro qua c'è il suo teschio alquanto. Inquietante. Cioè, che è sopravvissuta per 8 metri. Dalla guancia verso. Cioè, come ha fatto a sopravvivere? Non sentiva dolore. No, assolutamente. Ma non ho finito che non ho finito. C'è gente rimane che non sentiva la matita sul naso. Insomma, questo qua non sentiva nulla. Sono d'accordo, ma questo qua aveva una poi era vicino alla mandibola, cioè. Quando mangiava. Sarà inciampato. Sarà inciampato. Oh, iniziate a mi controllo bene. Sono così. Ragazzi, ragazzi, c'ho un jet nel. Ma ragazzi, la salute è un piatto che va servito freddo, qualcosa si può dire. In Sudafrica, ma lo studio americano mette in guardia chi consuma abitualmente la cannabis perché può presentare le stesse modificazioni cerebrali di chi è affetto da schizofrenia. Non guardatevi in maniera complice in questo caso quando vi fate queste cose che poi sembra male ai ragazzi che sono a casa, no, assolutamente. Ma quindi scusa, se fa vedere schizofrenia anche loro vedono gli angeli. Puoi vedere gli angeli anche in questa maniera. Che ormai è diffuso in tutto il mondo senza chiederci perché. Però la canna hanno sempre dire c'è cioè, questa parte fa bene, questa fa male, qua no, qua sì. E poi la ritrovi nella guancia. Ovvio, al contrario. Io capisco che alla fin fine non faccio completamente bene, però abbiamo anche isolati positivi. Ma come ogni cosa, però se ne abusi troppo fa male. Ma alla fine ci vuole molto. Ma alla fine è come qualsiasi altra anche la Madonna. Però. Ma alla fine è come qualsiasi altra cosa. Se sfumi troppo. Hai comprato bene in casa. Ma ragazzi, sono tutti i punti di vista. Un altro punto di vista sfatato da una recente ricerca è l'utilizzo dei multivitamici. Questi bibitoni, questi pilloloni, queste cose particolari per integrare. Il metabolismo, no, nel cibo, e pare che secondo questa ricerca non aggiungano nulla a chi semplicemente si nutre correttamente e quindi una nota marca farmaceutica ha detto che praticamente anzi non utilizzarli perché comunque ecco, è immettere qualcosa di esterno nel corpo e non è il caso. Avete taurina? No. Ho detto taurina per non fare pubblicità e pubblicità. E vabbè. Ragazzi, non escono da questa storia del... Che cosa? Contieniti. magari. Pensaci. Andrea, visto che hai la bottiglia in mano, perfetto. Ecco. Ma ragazzi, ultima notizia, la web tax. La web tax danneggia l'Italia. Questa tassa introdotta assolutamente recentemente per regolare il mercato del lavoro tramite internet che impone alle aziende italiane di comprare, di acquisire dei servizi solo da aziende che hanno la partita IVA in Italia. Rischia di danneggiare solo l'Italia perché alla fine è un mercato che rischia di chiudersi ulteriormente. Quindi niente, non ti senti toccato da questa cosa? Ah, io personalmente no, ma se la mia azienda, ma Io invece sì, ci sarà l'escamotaggio. Però, quello sì, però mi chiedo perché a questo punto un'azienda come Google deve investire in Italia. Cioè, Google in Italia. Non capisco perché. Ma Google Italia è una filiale sottofiliale di Quindi non è un esterno dell'Italia. No, attualmente no. Attualmente ha comunque il. In Italia no. Era lanciata per la sessione fiscale, non so quanti milioni, però vabbè ragazzi, non capisco proprio perché bisogna questa parte di internet. Cioè anche così le aziende fanno pubblicità, per esempio quando fanno pubblicità alle aziende italiane devono prendere i soldi dalle aziende italiane, ma devono pagare le tasse allo Stato italiano, perché sennò le quella della tua azienda paga in pubblicità a Google, se ne va in America, non resta in Italia. Se tu paghi un servizio pubblicitario ad un'azienda che è in Italia, fisicamente, ma in realtà non lo è, perché non paga tasse in Italia, si prende i tuoi soldi e si li porta in America, e quindi l'azienda non resta in Italia. No, il contratto. Google comincia a pagare tasse in Italia. Quello che non fa. Google dice che non è in Italia, poi io in Italia. Che lo faccia? Entrerà un'altra azienda che farà pubblicità in Italia. Ma non la potranno fare in Italia. Ma in questo modo... No, vedendo e facendo, ragazzi. In questo modo le ditte inglesi non fanno pubblicità con l'Italia, per esempio. Mentre c'è una ditta inglese che fanno pubblicità con l'Italia, qua in Italia deve pagare una tassa che però... Dipende dall'azienda che ti fa la pubblicità. Se l'azienda inglese X chiede alla Cena dei Regini di fare una pubblicità, la Cena dei Regini fa la pubblicità, incassa un tot di soldi, troppo non succede. Però se ho capito il discorso. E paga le tasse su quei soldi che hai incassato. Se tua azienda è italiana, paghi Google per farti pubblicità, per mettere un banner sulla sua pagina. Ma questi soldi vanno in America. Però secondo me il punto è un altro. Non è la pubblicità, è l'hosting. È il tentativo di riportare in Italia tutti i siti che sono fuori e quindi sotto il dominio italiano. Assolutamente. E quindi lavorarci sopra con tagli e tagli vari. Quindi, ragazzi, speriamo bene che la rete resti sempre libera. Finiamo adesso il nostro spazio delle notizie con un piccolo spazio musicale. Thank you. I was walking with a ghost. I was living on a grid. Context clutter in my head. No matter what I did, in the fullness of time, we will find a place where love will want to stay. In the fullness of you, we'll see through this manner of traveling. Destination. I just need a way to go. It's the process, not the product, that always teaches you the most. But I know in the fullness of time, we will find a manner of traveling. Ragazzi, c'è una @back.it, commentate questa puntata immediatamente tramite la mail e passiamo adesso allo spazio della classifica. La classifica in questa puntata dedicata ai misteri riguarda i 10 grandi misteri irrisolti, perché ci sono grandi misteri irrisolti. È un sondaggio ripreso da una televisione inglese e partiamo subito dal numero 10. La numero 10 è il mistero di quanto si potrà allungare l'aspettativa di vita umana. Di quanto? Chi lo sa? 42. Gli esperimenti sulle cavie hanno convinto alcuni scienziati che comunque sia possibile vivere oltre 100 anni, però ancora non si è determinato quanto. Beh, considerando che c'è solo un'evoluzione rispetto al modello vita di Pate, rispetto ai tempi antichi, c'è una volta, come diceva Dante, nel mezzo dei cammini di nostra vita, 35 anni, che arriva a macchina di 70, ora c'è chi arriva a 100 e a 80 anni, è possibilissimo che più avanti saremo arrivati a 200. Tempi antichi, tempi antichi, la classica età media era 50 anni, poi c'è di più, diciamo di più, ma il problema è che a 100 anni comunque ma molto più vecchio di quanto Dante voleva essere a 70 anni. Diremo di più, ma saremo anche più annoiati. Ragazzi, alla numero 9, il grande mistero del numero 9 è: quando finirà il mondo? Perché ci sono diverse teorie. Mi ero fatto le parole Diverse teorie dicono che comunque smetterà l'universo di espandersi e collasserà, varie teorie dicono che si raffredderà fino allo zero assoluto, e comunque ci sono diverse teorie, tutte naturalmente. Tutte astrofiche. Perché si parla della fine del mondo. Secondo me moriremo tutti molto, molto prima. Noi moriremo, punto. Non si sa quando, un giorno moriremo. Sempre se non ci spostiamo dalla terra. Comunque, cioè, 5 miliardi e mezzo di anni. Se ci spenderemo tutto un diverso stile film scientifici, probabilmente ci diventeremo molto di questi invece. immagino Andrea che dice data a stellare gli ali del capitano, data a stellare di tutto ciò. Se mandiamo lui siamo rovinati. Non ci fa entrare. Allora ragazzi, col piede blu, andiamoci! Alla numero 8. Con cosa sarà possibile sostituire il petrolio e quando? Perché ancora, malgrado gli sforzi per cercare di sostituire il petrolio. Voi non, non adesso vi picchierete, ma io dico ok, c'è stato. Dove c'è stato. No, no, hai c'è sperimentato stato... questo, cioè. Sì, no, non lo so. Cioè, aspetta, in che senso? Ok. No, l'avevo letto nei miei girovagamenti su internet, cioè comunque ci sono degli esperimenti che usano urina animale, non umana. Ah, sì. Per diminuire urina. Stai zitto! Quindi per alimentare alcuni tipi. Alcuni prototipi di motore. Quindi immagino le persone che vanno dietro agli animali. Porcellino, vieni. Se resti a secco, guai. C'è il serbatoio. Ma cioè, a me lo portate quell'animale. Cioè, quella umana. Urina. Cioè, e lì è secco. Fermi e fai benzina. Ma sempre urina è umano animale. Quindi. Devi comprare un cavallo. Una macchina e vai al cavallo. Anche questo, giustamente. Però sei un vai a mucca. Una cosa drammatica. Ragazzi, al numero 7, la grande domanda. Colonizzeremo lo spazio? Sì. Alcuni sostengono che dovremmo prendere in serie considerazione l'idea di andare a creare nuove colonie su altri pianeti, visto che la Terra sta diventando sempre più inospitante. Ma ce la farà. Mm. Guarda, io so che hanno studiato nuovi mezzi di combustibili, comunque per schierarsi, per fare in modo che la spinta sia maggiore anche la durata. Il fatto è comunque se effettivamente, cioè alla fine, in questa galassia dubbio sia possibile. Cioè, quanto so io. La galassia sì, è possibile. Stiamo studiando... Il sistema solare, scusami. Il sistema solare? Il sistema solare è non difficile, ma se c'è un robot che... Dentro si pensa che sotto Europa ci sia vita, non so. La tecnologia si è sviluppata. Ovviamente. Ragazzi, andiamo avanti perché al numero 6. Grande mistero, è possibile viaggiare nel tempo? Al numero 6? È possibile viaggiare nel tempo? È possibile viaggiare nel tempo? Al numero 6? È possibile viaggiare nel tempo? Questo è déjà vu. Ma se è possibile viaggiare nel tempo, tra un minuto voglio vederlo qualcuno qua. Non penso di vero. Non è andato, oppure non stavo guardando. Ma non è forse l'inizio di Big Bang Theory. Dettagli. Sarebbe teoricamente possibile grazie a dei cunicoli spazio-temporali, però al momento sono alquanto instabili e quindi sembra impossibile. Ma se abbiamo detto qua, se abbiamo già un stiamo detto non è ragazzi, non ci entro! Ma la vera domanda è: se fosse possibile, sarebbe veramente una cosa buona? Io no. C'era un panda con la faccia di un panda, tutti quanti con la faccia di panda. Dai, cioè, perché? Perché invece. Buono. Perché la scimmia invece di accoppiarsi con un maiale si è accoppiato con un panda. Con un panda. La scimmia dell'ultima puntata. Ragazzi, al numero 5. Al numero 5, quando è iniziata la vita sulla Terra? Ieri. Appunto. Diverse teorie, ma nessuna effettivamente. Allora noi seguiamo. Se noi seguissimo la teoria religiosa, sarebbe nata migliaia di anni fa. Un uomo, una donna, una mela e un serpente. Cosa c'è di più? È provata, guarda. Ma cosa c'è di più della semplicità della religione che ti viene incontro? Cioè, niente il contrario, però. Io sì, molto. Resto legato al fatto che è nato 75 milioni di anni fa, circa. Basta, non so, nessuno mai esistito. Aspetta, i fossili di dinosauro sono una prova di Dio. Ovvio. Per testare la nostra fede. In verità, gli ha sparsi come temi e ha detto, vediamo quello che trovi. Io ci sono trovato un teschiolino là. Andiamo avanti, alla numero 4. quanto è grande lo spazio. Ancora non sei riuscito a venire a capo di questo mistero, ci sei solo, comunque si attiene a delle misurazioni molto molto approssimative. Hai qualche... ti vedo ferrato sull'argomento, hai delle idee su questo? Sì, gli Stargate. Ancora non si è capito. Ma in cosa? Sto cercando per questo, ci sono le teorie che dicono che si espongono su tutti i modi, sì, come si continuerà questo lo mi sembra ovvio. Alla numero 3 una domanda che va ancora più inquietante: Dio esiste? Questa cosa ancora non si è trovata nessuna conferma esatta né scientifica dell'esistenza di Dio. Ecco. Ma guarda che è morto diversi anni fa. È morto. Ragazzi, no, vabbè, ragazzi, scherzi a parte, non voglio essere blasfemo in alcun modo. Il fatto è che comunque Dio è, dal momento che non si hanno prove fisiche, Dio è sempre un'idea, per ora. E di conseguenza che esista o meno dipende tanto dalla persona. Cioè alla fine nessuno può provare né che Dio esista, né che non esista. È un ideale. È un ideale per il momento. Non una prova tangibile. Una prova di fede e di credere. Assolutamente. Ah certo, certo. Sì, quando però... Il mio Dio più forte. Assolutamente. Anche questo si può dire. Arti spada 2, vero? Vero gigante. Andiamo avanti. Che ho detto dell'esistenza di Dio, non dei suoi errori, ragazzi, quindi potete stare tranquilli. Allora, numero 2. Verrà mai trovata una cura per il cancro e altre malattie assolutamente generali? Un paio di volte la storia. Sì. Io mi ricordo. Sono sarcastico. Ogni anno trovano una nuova cura per il cancro. Molti dicono che ci sia molta speculazione dentro. Sì, infatti, ci sia interesse a far venire a galla le cure. Magari c'erano già la cura. Soldi. Sì, però le ritengo una cosa abbastanza stupida. Cioè, è una cosa di cui le persone muoiono. Anche i soldi. E anche le persone che spendono soldi. Ah, io ho letto un articolo tempo fa, che appunto dicono che Teton, una cosa simile, si è curato sul fatto che loro sapessero come curare. Comunque è da tanto che hanno continuato a raccogliere fondi su quella questa malattia e ancora non si è fatto niente. Però ho pensato che alla fine è difficile trovare una vera cura. Cioè magari non è impossibile, però non penso neanche che tutta questa facilità a trovare, andare a trovare un modo per sconfiggere la cosa che può uccidere una persona. Di conseguenza... se ci fosse una soluzione, per i medicinali, per le terapie, sai quanti soldi dovrebbero, non hanno interesse. Ma non metti in dubbio che... Ma non metti in dubbio che tu possa avere ragione, magari è vero, magari c'è già qualche cura. Però continuo a pensare che se ci fosse qualcuno andrebbe a dirlo in giro. Perché comunque ci sarà quella persona che dice, stiamo sbagliando. Nel mondo moderno tutto è possibile, anche che non ci sia quella persona che l'hanno pagata abbastanza. Detto questo, ragazzi, alla numero 1, la grande domanda, il grande mistero, più grande di tutti secondo questo sondaggio: siamo soli nell'universo? Secondo gli scienziati potrebbero esserci dei mondi, comunque sistemi planetari simili e compatibili alle nostre forme di vita, però ancora non abbiamo sviluppato i mezzi adeguati per arrivarci. Beh, hanno trovato un pianeta abitabile, però non sono comunque riusciti a... però non sono riusciti a... Ma dicevano in quel famoso film Contact, sarebbe un po' di spazio. sono da soli. Hanno trovato un pianeta che sembrava abitabile, ma è grande, dicevo, più terra, non si faceva. Comunque è evoluzione. Un pianeta che assomiglia alla Terra ma è cambiato 10 volte tanto, quindi la gravità ci sia. Beh, sarebbe stupido pensare anche se la gravità fosse inferiore che la Terra, ci indebolirebbe. Se ci indebolirebbe. Comunque è stupido se noi pensassimo che fossimo però... gli unici abitanti di questo universo. Ovviamente le ossa si formano in base alle verità, se noi siamo una generazione su Marte, le ossa ma passa la luna che è leggermente inferiore a questa verità. Ma io immagino le persone degli altri pianeti che tirano c'è vinti di gente dell'universo, poi vedono i nostri politici e te ne vanno. Anche questa è una possibilità molto... Qui non c'è niente... Ragazzi, adesso scrivete a cianchiocciolibacca.it il vostro personale mistero che ancora è irrisolto. Dove sono i miei? Può anche essere. Perché mia madre fa comprare le cose all'improvviso quando io avevo già cercato? Ragazzi, scrivete a cianchiocciolibacca.it, me lo dite qua perché è inutile. Va bene? E adesso passiamo a un piccolo spazio musicale. Lion in the jungle, lion in the Congo jungle, lion in the jungle, lion in the Congo, yeah. Lion on Judah, don't sleep tonight, cause the work is protecting us. We must get ready for peace and love, cause end of the day we got to pay the cost. Lion in the jungle is a G. Lion in the jungle, only G. Lion in the jungle. E ragazzi, era la cena dei regini, Christmas is coming, e quindi un applausino perché sono stati veramente bravi. Noi ci vediamo la settimana prossima su Radio Bawalla e in video su YouTube, non privatevi di questo spettacolo. Un saluto a tutti dal Bacca e dai ragazzi della cena dei regini. Ciao!